Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. La nostra borsa della spesa oggi è piena di prodotti tipici pasquali che affollano in questi giorni gli scaffali dei supermercati. Scaffali che rimarranno più pieni degli altri anni, dicono le associazioni dei consumatori, stimando cali consistenti a causa della crisi e del rialzo dei prezzi. Focus sui trend dedicato invece ai consumi wiki, quando la condivisione fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Con oltre 1 miliardo di utenti mensili, è il canale televisivo più visto al mondo. Questo è il traguardo raggiunto da YouTube, la piattaforma nata 8 anni fa e poi acquisita da Google. Una vetta che il sito di video sharing raggiunge a pochi mesi di distanza dal medesimo record segnato da Facebook. Gli italiani non rinunciano ai cibi freschi. Secondo i dati Nielsen, panifici, macellerie, pescherie, fruttivendoli e salumerie risultano più frequentate in Italia rispetto all'Europa e al resto del mondo. Design europeo, ma appeal cinese. Dopo la moda, anche il mondo delle auto di lusso aggiorna la sua strategia verso il grande continente asiatico. Audi, che nel 2012 ha venduto in Cina 400.000 auto, punta sui designer cinesi per il centro di ricerca aperto di recente a Pechino. Un altro pezzo di Gran Bretagna potrebbe finire nelle mani del Qatar. La catena di abbigliamento Marks & Spencer. Dopo il blasonato Harrods e il 26% di Sainsbury, terza catena di supermercati della Gran Bretagna, il paese del Golfo si assicurerebbe così un altro tempio dello shopping inglese. Grande ritorno a Parigi del Cancan, la danza simbolo dei cabaret d'Oltralpe. Dai corsi specializzati al nuovo show al Palace, la celebre danza della Belle Époque torna alla ribalta. Presto a Berlino un museo tutto dedicato alla Trabant, l'utilitaria simbolo dell'ex Germania dell'Est. Il progetto è di un imprenditore che della cosiddetta Ostalgie, la nostalgia dell'atmosfera della DDR, ha fatto un business, proponendo il Trabi Safari, tour per le vie di Berlino con le vecchie utilitarie. La borsa della spesa. Ciao amico, quanto tempo? Dalla bufera del 68. La domenica di Pasqua, giusto? Il canguro di Pasqua. Il che? Io sono un coniglio. Mai sfidare un coniglio. D'accordo, tranquilli, niente panico. Ma questo cane è un levriero. Sai che cosa fanno i levrieri ai conigli? Beh, è una scommessa facile. Questo non ha mai visto un coniglio come me. Alto 1,85 m, nervi d'acciaio, maestro di tai chi. Eh sì, ci vorrebbe proprio Calmoniglio, il coniglio pasquale guerriero delle 5 leggende per difendere noi consumatori dai rincari dei prodotti pasquali. Rincari che anche quest'anno trasformano gli acquisti del periodo in una vera e propria guerra contro rialzi spesso ingiustificati. I dati diffusi in questi giorni rendono il boccone delle specialità pasquali un po' meno prelibato. Parlano tutti di un aumento dei prezzi che oscilla tra il 6 e il 12%. Per uova di cioccolata e colombe soprattutto, aumenti più contenuti invece per carne e uova. Sarà una Pasqua all'insegna dell'austerità, dice il Coda Cons, che stima un calo record degli acquisti di prodotti tipici pasquali, fino al 17% in meno, pensate, rispetto allo scorso anno. Visto il periodo ci saremmo aspettati prezzi in calo, non in aumento, ci dice il presidente di Federconsumatori, Rosario Trefiletti. Se ci fosse saggezza nel mercato avrebbe proprio dovuto essere così, e in una forte contrazione dei consumi, soprattutto in quantità. Noi abbiamo valutato una caduta di oltre il 12% dei consumi pasquali. Beh, insomma, ci saremmo aspettati, come ogni buona regola dell'economia, una caduta anche dei prezzi. Invece, purtroppo, registriamo sui dolci tipici della Pasqua, le uova di Pasqua, le colombe e via dicendo, un aumento che va dal 7-8% fino al 9-10%. Insomma, questo non non va assolutamente bene. Tra l'altro quest'anno la Pasqua coincide con la fine del mese. Ed è, alla fine del mese significa, come in tutte le cose, in una, ormai questa cosa è da anni che si verifica, che alla fine del mese ci arrivano ben pochi con le risorse necessarie per fare degli acquisti, soprattutto quando non sono acquisti assolutamente fondamentali. Ecco perché anche questa cosa inciderà senza dubbio sulla contrazione dei consumi. Voi avete stilato un vademecum per risparmiare sul vostro sito, gli ascoltatori potranno trovare tutti i consigli, citiamone un paio. Sì, fondamentalmente sono due. Uno è quello di non fermarsi ai primi acquisti, ma bensì vedere, girare e guardare e confrontare i prezzi. Beh, questo è una cosa fondamentale, perché qualche promozione la si trova sempre. E la seconda cosa è fidarsi molto, perché non solo la qualità è decisamente superiore, ma soprattutto per i prezzi. Se noi compriamo e acquistiamo prodotti a chilometro zero, ripeto, si ha una risposta in qualità e anche sui prezzi importante. Ecco perché consigliamo vivamente di fare gli acquisti con questa metodologia. Visti i prezzi, verifichiamo almeno che siano prodotti di qualità, leggendo le etichette, per assicurarci ad esempio che la colomba contenga il burro e non i grassi vegetali e l'uovo la giusta percentuale di cacao. A questo proposito vi suggerisco la guida del Movimento Difesa del Cittadino, la trovate online. Ma perché questi rincari? Speculazione oppure aumenti per fattori contingenti? È aumentato il costo delle materie prime? Lo abbiamo chiesto a Domenico Mastrogiovanni della Confederazione Italiana Agricoltori. Sono aumenti dovuti a un fattore strutturale che è dovuto non all'aumento delle materie prime, per cui i rincari sono molto, molto limitati, ma al fatto che molti di questi prodotti, per poter arrivare sul mercato, devono viaggiare, e l'incidenza del costo del trasporto, quindi dei carburanti, provoca dei rincari che in alcune produzioni toccano quasi il 10% rispetto a quello che era l'andamento dei prezzi registrato lo scorso anno per i prodotti nel periodo pasquale. Quindi, per quanto riguarda strettamente le materie prime, non ci sono rincari? Non ci sono rincari, anzi, per alcuni prodotti, come per esempio il cacao, anche dovuto al fatto che non c'è stato un aumento dei consumi generali a livello mondiale e si è registrato un aumento della promozione, la borsa del cacao internazionale dà dei prezzi in riduzione rispetto agli scorsi anni. Solo che il prodotto acquistato a distanza poi deve arrivare sui mercati nazionali ed europei e incide pesantemente il costo di trasporto, che ha toccato quasi un 20% di aumento rispetto agli scorsi anni. Le notizie più importanti sono, quando si acquista un prodotto, guardare la provenienza e l'etichetta per cercare di acquistare un prodotto su cui incide meno il costo del trasporto. Anche quando si guarda a un prodotto tipo l'uovo di cioccolato o un prodotto tipicamente pasquale, perché anche qui c'è la possibilità di acquistare prodotti artigianali, fatti da artigiani anche del nostro paese, che hanno un giusto rapporto qualità-prezzo. C'è una crisi economica, c'è la difficoltà delle famiglie a arrivare a fine mese, ne sentiamo di tutti i colori, allora le famiglie orientano l'acquisto dei prodotti, vanno anche sul prodotto di marca, ma l'acquistano in maniera limitata, anzi molte famiglie cercano di acquistare le materie prime tipo farina, uova e altri prodotti, e sono tornati a fare la preparazione dei prodotti pasquali direttamente in famiglia. Questo porta delle conseguenze maggiormente sulla ristorazione, perché c'è meno movimento da parte delle famiglie in questi giorni per consumare il pranzo pasquale o quello che sarà la scampagnata il lunedì di Pasqua. Essere e avere. Con con la colonna sonora di The Social Network, il film del 2010 che racconta la storia del fenomeno Facebook, introduciamo il tema del focus sui trend di questa settimana. Parliamo di consumi wiki. Lo facciamo come sempre in compagnia della nostra esperta di nuove tendenze, Patrizia Martello di Memetic Lab. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Wiki è l'espressione con cui ormai si identifica tutto quanto è aperto, collaborativo, partecipativo, condiviso, creato e conosciuto da tutti, dalla moltitudine. Con consumi wiki si indicano prodotti, servizi e strategie di comunicazione che hanno a che fare con il crowdsourcing, la creazione collettiva, partecipativa, con il crowdfunding, il microfinanziamento via web, con l'interazione tra brand e consumatori attraverso i social network. Patrizia. Sì, siamo nell'era delle folle, The Age of Crowds, come sottotitolò Jeff Ho il suo libro manifesto appunto sul crowdsourcing. Siamo nella sharing economy, l'economia del noi, o per usare altre definizioni, wikinomics, weconomy, insomma parola d'ordine e per l'economia e per i consumi, ma anche per la società, collaborare, condividere e fare insieme. Le tecnologie connettive e l'ecosistema digitale stanno cambiando il modo in cui consumiamo, socializziamo, ci spostiamo, in definitiva i modi in cui viviamo e funzioniamo come società. E uno dei cambiamenti più significativi è proprio in queste modalità collaborative, wiki, che hanno generato modelli come il crowdsourcing, il crowdfunding, ma anche il wiki branding, il branding collaborativo, perché anche i brand diventano wiki, cioè cofondati continuamente dai consumatori che appunto guidano sempre più i mercati. È proprio Wiki Brands reinventa il business nell'era della partecipazione, il titolo di un recente libro uscito per Franco Angeli. La crisi ha costretto consumi e società in una prima fase a ripiegarsi sui basics e a contrarre, ma poi anche a trovare strategie ed espedienti smart, intelligenti per continuare ad avere il meglio a meno. E con il modello crowdfunding le persone, i singoli privati possono finanziare progetti imprenditoriali di altri, progetti in cui credono, diventandone microazionisti. In qualità di consumatori, fruitori dei prodotti e dei servizi che hanno cofinanziato, con una nuova definizione diventano cast owners, cioè consumatori coproprietari. Il modello funziona perché combina lo spirito degli innovatori con il feedback delle rispettive comunità di potenziali consumatori disposti appunto a finanziare qualcosa che non c'è ancora, ma che se ci fosse vorrebbero e acquisterebbero. Un esempio su tutti lo smartwatch di Peeble, l'orologio computer, che ha raccolto 10 milioni di dollari subito appena lanciato su Kickstarter, coprogettato con i feedback delle persone che li volevano, per esempio impermeabili all'acqua, colorati, eccetera. Anche i casi di crowdsourcing sono sempre più numerosi e interessanti. Nel mondo dei servizi bancari, Barclays per esempio ha lanciato una nuova carta di credito con contenuti di servizio co-costruiti con i propri clienti. Nella moda, stilisti come Oscar Della Renta o Telfar Clemens stanno disegnando i capi per le prossime collezioni insieme ai fan, a cui chiedono di inviare i loro personali materiali ispirativi. Saranno esposte in tutto il mondo le Red Bull Collective Arts, arte, marketing e comunicazione per un brand che non disconferma il suo alto tasso di innovazione. Di cosa si tratta? Un'iniziativa Wiki 2.0 promossa appunto da Red Bull, molte opere, ma di fatto un'unica grande opera collettiva co-creata da una selezione di artisti che uno dopo l'altro, in una specie di staffetta, aggiungono il proprio artefatto al punto in cui è arrivato il precedente partecipante. Ognuno col proprio linguaggio espressivo, pittura, disegno, schizzo, eccetera, o creazioni digitali prodotte con software di design. Le date e le location delle mostre saranno pubblicate proprio in questi giorni sul sito Red Bull. E in questi giorni ha fatto notizia il caso Veronica Mars, la popolare serie TV che diventerà un film proprio grazie ai suoi fan e al crowdfunding, il microfinanziamento via web. Il creatore della serie ha chiesto aiuto alla rete attraverso Kickstarter e in pochi giorni sono stati raccolti oltre 3 milioni di dollari. La nostra storia è epica, tu e io. Epica come? Dura per anni, conquista continenti, vite rovinate, massacri. Epica. L'estate sta arrivando e noi non ci vedremo mai più. Tu lascerai la città e sarà finita. Logan. Mi dispiace. Per l'estate scorsa. Se potessi cancellarla. Devo andare. Ciao. Ciao, prima devo chiederti scusa per essere scappata via in quel modo ieri sera. Io ero un po' frastornata, dovevo riordinare le mie idee e pensare alle tue parole. Ricordi quando hai detto che la nostra è una relazione epica? Di ieri sera ho un ricordo sfocato. Chi è? Il servizio in camera? No. Solo Veronica Mars. Patrizia, componente fondamentale ai social network, lo abbiamo detto, ma i progetti finanziati non hanno necessariamente a che fare con l'online. Sì, ripartire dal concetto noi, del ciò che è mio e tuo, per citare un altro titolo di un libro chiave sul tema, certo trova nel digitale un acceleratore connettivo che facilita progetti, pratiche, imprese anche offline, basate sul concetto di condivisione e collaborazione, per esempio tra le persone di uno stesso quartiere metropolitano. TaskRabbit, per esempio, è un'app che è di fatto una bacheca digitale geolocalizzata di quartiere, attiva in 9 grandi città americane, ma sono previste quest'anno le attivazioni su Londra e Vancouver, una sorta di marketplace di aiutanti per ciò di cui abbiamo bisogno e che non abbiamo voglia di fare, quindi commissioni, fare la spesa, montare mobili IKEA, portare fuori il cane, eccetera. Un esempio di come essere in rete aiuti di fatto l'affermazione di servizi basati sulla collaborazione, che sono innovativi nella misura in cui risolvono piccoli problemi quotidiani delle persone comuni. Nel campo dei servizi per la mobilità, dopo Zipcar, il servizio statunitense di car sharing ideato 10 anni fa da Robin Chase, che è oggi la più grande azienda del mondo, la fondatrice lancia la startup francese Buzzcar, che è l'evoluzione del concetto di car sharing ed è il peer-to-peer delle automobili. Cosa significa? Un servizio che permette di affittare la macchina del vicino per un'ora o per un giorno e pagare solo per il tempo dell'uso. L'assicurazione è a carico di Buzzcar. Omologo progetto OcoBici, lanciato a Milano da Snark, privati che condividono l'uso delle proprie biciclette. E a proposito di biciclette, anche la caccia ai ladri oggi si fa sul web. A Milano, dove i furti di biciclette sono ahimè un problema molto sentito, rubbici.it è il sito dove segnalare le caratteristiche del proprio mezzo sparito. Gli utenti della community possono così contribuire al suo ritrovamento. La tecnica, dicono gli utilizzatori del sito, funziona. Anche in campo turistico, interessanti i progetti di Wikitown, come quello in Belgio, Tag Tag City, le guide costruite, in questo caso si tratta di Bruxelles, con l'aiuto degli abitanti per segnalare luoghi interessanti della città corredati di recensioni e di storie. Dai servizi ai prodotti. Samuel Adams è un birrificio artigianale di Boston che ha creato un team di progetto con i fan attivi sulla propria fanpage di Facebook e ha fatto progettare loro una nuova birra. Prodotta, testata in un campione di locali selezionati e poi lanciata sul mercato. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo in Danimarca sui consumi wiki? Questo è il momento della nostra Urban Watcher. Alessia Zampano, ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. La catena di supermercati Superbrugsen, che fa parte del gruppo Coop Danimarca, ha ingaggiato i propri consumatori in una delle attività principali, ossia definire l'assortimento della merce sugli scaffali. Sul sito dell'azienda, infatti, è possibile compilare un form che permette a chiunque di suggerire produttori locali o fornitori che operano nella regione di cui vorrebbero trovare i prodotti nel punto vendita più vicino a casa. Gli utenti possono inserire uno o più suggerimenti, la descrizione dei prodotti e le ragioni per cui Superbrugsen dovrebbe venderli. Raccolte tutte queste informazioni, i manager dell'azienda testeranno la qualità dei prodotti per verificare che rispettino lo standard di riferimento e in questo modo, al completamento dell'operazione di crowdsourcing, la catena di supermercati stima di introdurre 500 nuovi prodotti locali nei suoi 230 negozi. L'iniziativa è estremamente interessante in quanto riesce a combinare il ruolo sempre più attivo dei consumatori nella definizione dell'offerta e la promozione delle piccole aziende e dei produttori locali che difficilmente avrebbero accesso alla grande distribuzione. Grazie Alessia. Patrizia, siamo in conclusione. Qual è il limite, se c'è, a tutto questo? Fino a dove ci si può spingere in questa direzione? Ma dunque, le iniziative web e i servizi non solo digitali che vengono gestiti in toto o in parte attraverso i meccanismi di partecipazione delle comunità di utenti sono evidentemente in crescita. Con riferimento a questi modelli che sono di business, commerciali e anche sociali, la tecnologia è una premessa ed è solo buona, svolge un ruolo di facilitatore. I temi critici possono essere la redistribuzione del valore simbolico ed economico generato dalle persone coinvolte in questi progetti innovativi, così come il potere connesso all'uso dei meccanismi stessi di partecipazione, un tema tra l'altro molto di attualità. La signora col passeggino, coinvolgi lei. Ehi tu, mamma col passeggino! Sì, tu! Puoi chiedere al signor Morro perché continua ad ignorarmi. Ed è tutto anche per questa puntata di Essere Avere. Se vi siete persi qualcosa, cliccate sul sito radio24.it e sulla nostra pagina Facebook, dove aspettiamo commenti, idee, suggerimenti, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.